Con il flauto di questa sigla, che rimane ormai scolpito nella memoria emotiva nostra e di tutti i nostri ascoltatori, riprende oggi la nuova stagione di Colonna Sonora, musiche per sbattimenti quotidiani. Oggi a puntatona, lo dico tutte le puntate e ci credo ogni volta, con un ospite dalla conoscenza immane, Alessandro Saebi, giornalista, blogger, green activist e persona in grado di smuovere le coscienze con cui affronteremo il legame tra sostenibilità o insostenibilità e disuguaglianze. Ciao Alessandro. Ciao, ciao a tutte e tutti e grazie per l'invito. Ok, in studio con me ovviamente più che un fido braccio destro, Paco, l'emisfero destro del nostro cervello che ci stimola e ci manda in collera con la sua tagliente ironia e immancabile musica di Franco, che oggi purtroppo non potrà essere in studio con noi, ma per le quali, lo sappiamo, molti di voi ancora ci ascoltano. Infatti, a dire la verità, Fede, qua il braccio destro deve fare anche il DJ. Franco non c'è, doveva farlo lui il DJ, quindi perdonate. Braccio destro e braccio sinistro. Bene. Benvenuto Alessandro, innanzitutto do i tuoi riferimenti, quindi il sito web alessandrosahebi.it con l'H tra la A e la E, su Twitter sei alessahebi e su Instagram sei alessandro_sahebi, così chi ci ascolta live o chi ci riascolta in podcast possa conoscerti. Diamo ai nostri ascoltatori il tempo di cercarti online e iniziamo con un brano. Vai, Paco DJ. Addirittura, è già il mio momento. È già il tuo momento. Birds Don't Sing, TV Girl. Bene, rieccoci in studio. Ale, Alessandro, parliamo di te e del tuo lavoro. Una domanda subito provocatoria per rompere il ghiaccio. Tu sei molto attivo su internet e sei molto attivo sui social network, ma credi che l'attivismo da smartphone sia una cosa utile? Ma innanzitutto bisognerebbe definire cosa significhi attivismo da smartphone, perché poi si rischia poi di cadere in qualche contraddizione, di fraintendersi, di non capirsi. Lo smartphone è uno strumento, quindi se l'attivismo diventa un attivismo che è strumento, lo smartphone, che poi internet, i social network, allora può essere utile. Internet e i social hanno un potere di amplificare, di connetterci, quindi sicuramente possono essere utilizzati. Diverso è ovviamente se lo smartphone diventa il fine, no? E quindi scadiamo nell'attivismo performativo, nell'attivismo fine a se stesso, quasi nel narcisismo patologico, sono usciti anche poco fa degli studi. Quindi bisogna sempre fare una netta e sana distinzione. Chiaramente poi non esistono metriche oggettive che possono determinare cosa sia attivismo performativo e cosa sia un attivismo sano che utilizza le applicazioni e i social network come strumento per connettersi. Chiaro che in un mondo come oggi, dove siamo, dove dobbiamo affrontare delle sfide globali, la connessione globale è sicuramente uno strumento importante per chi come noi parte dal basso. Io posso comunicare con un attivista negli Stati Uniti, come in Australia e in Cina, allo stesso momento. Penso che sia l'unico periodo storico in cui questo è potuto succedere. Secondo me ci sono un sacco di elementi positivi, non bisogna demonizzare. Certo, bisogna sapere che le applicazioni, quindi social network, Facebook e Instagram principalmente, sono in mano a delle grandi aziende, anzi a una grande azienda, quindi a un'azienda che ha un grande monopolio. L'abbiamo visto anche con l'Instagram down, il Facebook down l'altro giorno, quando crolla lui, crolliamo un po' tutti, e quindi bisogna sempre tenere un occhio di sospetto. Quando un domani parlare di disuguaglianza, parlare di crisi climatica sarà fastidioso per il buon Mark Zuckerberg, probabilmente ci causerà qualche problema. Questo bisogna tenerlo presente, quindi usiamolo finché possiamo per creare delle connessioni nel mondo reale, per incontrarci, per riempire le piazze, per discutere vis-à-vis, laddove è possibile, con la pandemia ovviamente. Dopodiché però utilizziamolo appunto come strumento. C'è chi non lo vuole utilizzare, che si è cancellato, chi mi critica perché lo utilizzo come strumento divulgativo. Io queste persone che pensano di avere la conoscenza delle pratiche irreprensibili l'ho sempre considerate un po' come dei fanatici. Non credo che sia lo strumento quello di usare dei metodi divulgativi antiquati. Io penso che bisogna anche adeguarsi anche nel linguaggio. Visto che noi parliamo sempre di questi sbattimenti quotidiani, poi la puntata e le trasmissioni sono sugli sbattimenti quotidiani da affrontare, queste è un po' diverse, però fondamentalmente io ti volevo anche chiedere una cosettina, è più una riflessione anche per me, Fede, ma lo sbattimento quotidiano, no, di decidere attivismo non attivismo, attivismo non attivismo, attivismo non attivismo, dai, un po' ce lo semplifica il fatto di poter fare qualcosa anche col telefonino, no? Sicuramente è uno strumento che può in qualche modo giustificare la nostra pigrizia, su questo non dobbiamo nasconderci. Però ci ha permesso, per esempio, durante la pandemia di rimanere in contatto, quindi sicuramente è un elemento che è importante. Poi è chiaro, pensare che si possa risolvere con degli hashtag, dei Canva o che ne so, con una diretta, beh, allora lì mi sembra un po' ingenuo, su quello sono d'accordo, che poi bisogna spingersi un pochino oltre. I social network sono stati creati per rispondere anche a quella che è un bisogno biologico dell'essere umano, se ci pensate, quello di mettersi in contatto gli uni con gli altri. L'attivismo in realtà è un nostro bisogno biologico, non possiamo vivere senza prenderci cura della nostra comunità, è fondamentalmente sbagliato. Chi lo fa poi comincia a star male, chi lo fa comincia a essere frustrato, quindi non è attivismo sì, attivismo no, ma cercare di portare alla potenza quello che è una nostra propensione, quindi tornare a occuparci dell'altro, tornare a occuparci della nostra comunità, è un qualcosa che dovremmo mettere in cima alla nostra lista, indipendentemente dai social network. Bene, bene. Poi ovviamente ci sono risvolti positivi, come potrebbero essere le organizzazioni Fridays for Future, eccetera, e ovviamente i vari gruppi Novax, eccetera, ma fa parte del gioco. Ora, io partirei con un brano musicale prima di iniziare a fare sul serio. E ci ascoltiamo Still My Sunshine. Thank you. was lying on the grass of Sunday morning of last week, indulging in my self-defeat. My mind was thugged on least, but it's all twisted wrong and beat. Uncomfortable, 3 feet deep. Now I'm fuzzy stare from not being there on a confusing morning week. Impair my tribal lunar speak. And of course you can't become if you only say what you would have done. Eccoci in diretta. Allora, innanzitutto diamo ai nostri ascoltatori maniera di interagire con noi sulla chat Telegram Radio Z-AM. Potete scriverci e vi leggeremo in diretta se avete dei dubbi o delle domande. Dopodiché, Alessandro. Mi ero dimenticato, davvero? Mi ero dimenticato, sì. Alessandro, oggi si è costretti a parlare di sostenibilità perché l'umanità fondamentalmente è arrivata al punto di mettere in discussione la vita sul pianeta Terra. Pare che qualsiasi cosa l'uomo faccia, lo faccia a discapito della natura. La maniera in cui ci nutriamo, ci spostiamo, ci vestiamo, praticamente il modo in cui viviamo, pare essere a discapito della natura stessa. Ma a guardare meglio, c'è una piccola percentuale di umanità che si può permettere una vita agiata, e per vita agiata intendo le basi, quindi accesso all'acqua potabile, una dieta equilibrata, eccetera. Ma come siamo arrivati a questo punto? Quando è successo che l'uomo ha perso il contatto con la natura prima, ma soprattutto la solidarietà nei confronti dei suoi simili poi? Ma allora, cominciamo con mettere qualche puntino su lei. Mi scuserei se sono pignolo. Non userei il termine uomo, anche per una questione di genere, ma parlerei di essere umano. Ma anche dire che l'essere umano sia la causa della crisi climatica, secondo me, è fondamentalmente sbagliato. Significa dire implicitamente che noi siamo portati biologicamente a distruggere l'ambiente in cui viviamo, siamo portati biologicamente a prevaricare sopra il prossimo. No. Non è così, non credo che sia così, è stato dimostrato che non è così. Quello che prevale oggi è un modello culturale di stampo occidentale, di stampo imperialista, che noi abbiamo portato attraverso un colonialismo dei consumi, che ne dicano i sovranisti, in realtà il modello occidentale è quello che ha conquistato il mondo. Basta vedere come si veste oggi un pastore dell'Iran o come si veste oggi un portinaio della Nigeria. tutti hanno blue jeans, tutti hanno magliette, ascoltano musica molto simile alla nostra, quindi possiamo dire che abbiamo colonizzato e egemonizzato il mondo col nostro modello culturale. E il nostro modello culturale, che si associa, si connette fortemente con un modello economico, ha di fatto omologato il mondo ad un unico sistema. Un sistema però che abbiamo visto, e ormai è sotto gli occhi di tutti, un sistema che non è sostenibile. Semmai possiamo fare un'analisi storica di come siamo arrivati ad accettare le disuguaglianze, come siamo arrivati ad accettare che il nostro mondo venisse distrutto a discapito del profitto. Le disuguaglianze ci sono sempre state da quando noi siamo diventati scienziari, sedentari, quindi da quando abbiamo 10.000 anni fa. Io sono un ragazzo, cioè ho 32 anni, 10.000 anni mi sembra. Ti abbiamo perso davvero? Poco prima di 10.000 anni fa. Ah, quindi pochi secondi fa. Sì. Beh, stavo dicendo che noi abbiamo inventato l'agricoltura 10.000 anni fa, però 10.000 anni, benché ci sembrino tanti, in realtà nella storia dell'Homo sapiens non sono tantissimi. In quel momento noi abbiamo inventato le società stratificate, cioè da una parte ci sono i contadini che devono mantenere l'esercito, devono mantenere i sacerdoti, e in quel momento lì sono nate le disuguaglianze. Quindi le disuguaglianze sono fisiologiche alla nostra società stanziaria, però abbiamo visto negli ultimi anni sono anche aumentate, quindi non è vero che è un problema che non si può risolvere. Per quanto riguarda invece la crisi climatica, sappiamo bene che un grosso volano rispetto a questa crisi è stata la seconda rivoluzione industriale, parzialmente anche la prima, ma soprattutto la seconda, quella del petrolio, che ha creato anche un modello economico che noi conosciamo bene, basato semplicemente su due elementi. Nell'equazione ci sono solo due componenti. La crescita, noi viviamo in un modello economico che si basa solo esclusivamente sulla crescita, e l'ossessione per il consumatore. Chiaro che se noi teniamo in mente semplicemente questi due elementi esatto, sì, il profitto è, diciamo, un prodotto della crescita. Se noi non teniamo a mente altri elementi come la sostenibilità ambientale o la dignità del lavoro, è chiaro che le contraddizioni emergono, come del resto stanno aumentando. Poi penso che dagli anni 80 ad oggi c'è stata anche un po' una rivoluzione culturale, è stato identificato con la nascita e la presa del potere da parte del neoliberalismo. Questo ha depotenziato tantissimo lo Stato, che quindi riesce meno ad aver controllo sui processi di produzione, anche sulle emissioni o l'inquinamento delle aziende. Abbiamo visto come a livello individuale ci sia una sorta di accentramento egoistico, come se fosse un valore positivo. Pensa per te, pensa alla tua carriera, pensa al tuo profilo Instagram, pensa alla tua laurea, alla tua università, non pensare agli altri, okay? Questa competizione eterna che come individui abbiamo con il prossimo. E quindi in questo contesto qui, in cui economicamente siamo portati alla crescita, al profitto, e assiologicamente, cioè moralmente, siamo portati a pensare solamente a noi stessi, alla nostra traiettoria personale, è chiaro che disuguaglianza e crisi climatica sono due conseguenze naturali. Però, come ho detto prima, si tratta di un modello economico e morale che ha preso piede negli ultimi due secoli in una storia che ha centinaia di migliaia di anni. Quindi come è finito il modello feudale, come è finito il modello imperiale romano, finirà anche il capitalismo liberale, benché oggi sembra che sia impossibile da battere. Si tratta semplicemente di essere pronti e cominciare a pensare alternative. Se ci diamo sconfitti in partenza, chiaramente non sappiamo più da che parte girarci. Mi sto preoccupando, vi dirò la verità. Però fa lo stesso, cioè già ascoltiamo un po' di musica, magari, no? Beh, mi sembra che una bella canzone in questo momento per fare un attimo chiarezza e capire come proseguire per la trasmissione possa essere una buona idea. Vi ha devastato. No, altro che, anzi, guarda, ci dai consapevolezza, che penso sia la cosa più importante. Quella però, che si dice una partenza col botto. Consapevolezza tutta in un colpo solo diventa difficile da gestire. Anni io devo gestire. Ho fatto la storia dell'umanità. Ho fatto la storia dell'umanità in tre minuti, ragazzi. Quindi io penso che sia. Minuti, esatto. Siamo fermi agli anni '80. Mettiamo un Clash, Rock the Casbah. Now the kid on the booty man, you have to let that rock. Bene Ale, rieccoci ancora in studio. Quindi, se ho capito quello che dicevi, il problema non è tanto l'umanità, ma pare essere il modello economico secondo il quale l'umanità vive. Stiamo parlando dei massimi sistemi, stiamo parlando delle decisioni che prendono i grandi, i vari G20, G8, G quanti sono loro. Ma a questo punto vale la pena sbattersi come singolo individuo per cercare di costruire un mondo migliore? I nostri consumi possono incidere sulle decisioni dei grandi G? Allora, come individui noi abbiamo il potere di poter determinare i processi politici e le decisioni politici. Purtroppo in un'epoca come questa, in cui registriamo un forte astensionismo durante le elezioni, che è lo strumento più diretto per poter far sentire la nostra voce, notiamo come le persone si stiano tirando indietro, le persone partecipano sempre di meno. Questo è grave, perché nella democrazia ognuno di noi dovrebbe avere un pezzettino di potere. Quando ognuno di noi rinuncia ad usare quel pezzettino di potere per qualsiasi ragione, di fatto lascia un vuoto. Chi riempie quel vuoto? Beh, chi ha il potere economico di poter influenzare i processi decisionali e distorcere quindi il potere democratico. Si rischia, se gli individui si tirano indietro, di tornare a una forma oligarchica, ce lo insegnava già Aristotele, quindi non sto dicendo assolutamente niente di nuovo. Poi c'è tutta una sfera che riguarda la nostra vita, il campo personale. La domanda che ci si pone spesso è la seguente: dobbiamo cambiare radicalmente le nostre abitudini? Sì, dobbiamo cambiare le nostre abitudini, innanzitutto perché noi viviamo in un sistema di abitudini intrisa nel privilegio occidentale. Però è anche vero che non dobbiamo cambiarle così radicalmente, perché l'individuo, per quanto sia un elemento di inquinamento, il singolo, il comune cittadino non determina così fortemente le emissioni di CO2. Sono stati fatti degli studi, c'è il classico rapporto Oxfam che ne parla: il 50% di popolazione mondiale più povera emette metà dell'1% di popolazione più ricca. Nell'1% ovviamente ci sono i ricchi e i super ricchi, mentre invece nella fascia un po' più allargata delle 10 persone più ricche ovviamente emettono più della metà delle emissioni storiche di quelle che emette il resto del mondo. Chi sono questi 10% e chi sono questo 1%, no? Perché detti così sono percentuali, i numeri sono freddi, a me non piace parlare tanto di numeri per questo. E quelli sono gli imprenditori, sono le grandi aziende, sono i responsabili, gli esponenti di governo, sono le istituzioni internazionali, sono quelle persone che da sole si possono permettere di muovere altre milioni di persone, possono permettersi di prendere forti decisioni. Quindi quando si fa, per esempio, io faccio sempre un esempio, il carbon footprint, no? Quanto io emetto individualmente come individuo, è vero che è importante, però anche il carbon footprint è stato visto come una pratica che è stata promossa da certe lobby affinché la responsabilità della crisi climatica fosse distribuita maggiormente sui cittadini. No, il 70% delle emissioni sono... Facciamo il Federico Ravasio, no? No, scherzo. Esatto, è lui. No, i nomi e cognomi saranno i vari, immagino, grandi imprenditori, grandi manager che probabilmente si spostano con jet privati per migliaia di volte l'anno, i grandi yacht, immagino tu stia parlando di questo. Ma anche le pressioni sui poteri decisionali. Faccio un esempio. Che la crisi climatica sia esponenzialmente aumentando, che sia un pericolo concreto, noi lo sappiamo da 50 anni. Il fatto che per 50 anni sostanzialmente non se ne sia parlato, se ne è parlato pochissimo, se ne è parlato sottovoce o in modo distorto, è perché lobby, gruppi di interesse, gruppi di pressioni hanno fatto sì che se ne parlasse di meno. Quindi ovviamente loro sono responsabili anche dell'inerzia e della non efficacia delle misure prese fino adesso, e su questo bisogna anche puntare il dito. Vi è stata una strategia di mistificazione di quelli che erano i dati scientifici. Poi sì, ci sono i comportamenti, ci sono i processi di produzione, e questi sicuramente sono in mano a pochissime persone che hanno un interesse affinché non si prendano decisioni strategiche e decisioni importanti. E questo bisogna tenerlo sempre molto, molto in testa quando si fa un tipo di ragionamento simile, se no si rischia di cadere nella solastagia, cioè quella iperresponsabilizzazione che hanno gli individui rispetto alla crisi climatica, che causa anche depressione, che causa ansia nella generazione Z, è diffusissima questo tipo di disturbo, questo tipo di fastidio. Bisogna un pochino di più spostare il baricentro della responsabilità sui nostri politici, sui nostri governanti, su chi detiene il potere economico. Quindi riassumiamo dicendo che il problema è un problema, come dicevamo prima, economico dei massimi sistemi. Ma in questa maniera non rischiamo... Più di quanto si pensi. Ma non rischiamo così di deresponsabilizzare i singoli? Cos'è? Liberi tutti, quindi? È quello che stiamo dicendo, liberi tutti, facciamo quello che vogliamo. No. Ok, allora, siccome conosco i miei polli, so come... questa considerazione mi viene fatta spesso, è vero, potrebbe essere visto così, ma in realtà se io ho la consapevolezza che il mio governante, il mio rappresentante ha una responsabilità maggiore nel governo della crisi climatica, io ho il dovere politico come individuo di fare pressione, di non votarlo, di mandargli lettere, di scrivergli, di andare ai suoi comizi e chiedergli conto del suo non far niente. Si tratta semplicemente di togliersi un pochino di responsabilità sulle proprie abitudini e comportamenti, ma assumere un po' di responsabilità individuale sul piano politico. Io sono un cittadino, quindi non devo curare solo il mio orticello, la mia carriera e il mio giardinetto, ma come cittadino e quindi come agente politico individuale ho il dovere di far pressione ai miei rappresentanti, se non candidarmi io, se non organizzarmi io, affinché la crisi climatica venga risolta. È una maggior responsabilizzazione sotto il piano politico. Bene, mi sembra molto chiaro, e questa cosa mi riporta a questo punto molto indietro negli anni, nel senso, nella mia breve esperienza politica, sto pensando ai movimenti di Seattle, ai movimenti di Porto Alegre. Aspetta, quale esperienza politica? L'esperienza intesa come la vita vissuta politica. No, pensavo di essermi perso qualcosa negli anni. No, non ancora. Avrei votato, giuro. io non so se mi voterei. Comunque, ripensando ripartendo indietro negli anni, ritornando qualche decennio fa, i movimenti di Seattle, i movimenti di Porto Alegre, Genova, dei lontani 2000, che sono movimenti ormai morti o uccisi per motivi che oggi purtroppo non avremo il tempo di affrontare, sono rinati o sono emersi movimenti come Fridays for Future, Youth for Climate, personalità come Greta Thunberg, Vanessa Nakate. Sembrano inoltre numerosi gli studi che dimostrano il tema della sostenibilità sia centrale soprattutto nelle coscienze dei cittadini più giovani, e lo abbiamo visto anche la scorsa settimana quando Milano è stata capitale mondiale con la Pre-COP, e non poche sono state le iniziative organizzate in segno di protesta. Ma i cittadini singoli probabilmente stanno dando dei segnali, perché nonostante questo prendere certe decisioni politiche pare essere così difficile? Allora, banalmente perché non si vuole. Ho già spiegato un pochino il perché vi è un interesse economico ovviamente nel far sì che non si prendano decisioni drastiche, benché gran parte della cittadinanza sia d'accordo con una svolta green, se vogliamo chiamarla così. Poi c'è anche da aggiungere un pezzettino, risulterò un po' antipatico, lo so già, però me ne assumo le responsabilità. Io ho fatto parte, faccio parte di molti movimenti verticali su movimenti antirazzisti, movimenti antifascisti, movimenti ambientalisti. Il tema è secondo me il limite grosso dei movimenti, che questa verticalità non permette loro di fare quello che in democrazia è il processo più lineare per cambiare le cose, cioè l'acquisizione del potere politico. È chiaro che un movimento che parla solo di ambiente non sta puntando a prendere il potere, sta puntando a sensibilizzare. Il limite della sensibilizzazione è proprio questo, che ti trovi sempre comunque a doverti interfacciare con un ente, un governo, un presidente del consiglio, un ministro, eccetera, eccetera, che comunque hanno l'ultima parola. Da qualche anno, devo dire la verità, sta tornando un po' il tema dell'intersezionalità, che sostanzialmente, per chi non lo sapesse, vuol dire cercare di coinvolgere più lotte e in qualche modo connetterne le une con le altre. Io sono d'accordissimo, sono veramente d'accordo con l'intersezionalità, perché è uno strumento importante, però faccio sempre una battuta. Mio nonno, che era iscritto al Partito Socialista, senza saperlo era intersezionale, anche se questo concetto è moderno, no? Lo usiamo noi giovani o giovanissimi. Mio nonno era intersezionale perché in realtà nel Partito Socialista, nel socialismo in generale, vi era un'ideologia, e l'ideologia cos'era? Una visione del mondo capace di comprendere, quindi prendere allo stesso tempo, varie sezioni. Mio nonno non aveva bisogno di dichiararsi antifascista, antirazzista o ambientalista, perché nella parola socialismo c'era dentro un po' tutto. Oggi parlare di ideologia, le persone ti guardano come se stessi parlando del 1858, però forse è quello che ci serve, perché l'ideologia è ciò che ci può aiutare a comprendere, come ho detto prima, più argomenti verticali, ma soprattutto a dare un senso e un significato all'azione politica. E io penso che l'azione politica oggi manchi proprio di questo, di un senso e un significato, un po' il grande vuoto che secondo me a sinistra non riusciamo a colmare. Sarò un vetero marxista a parlare di questo, però se ci sedessimo intorno a un tavolo e ricostruissimo una forma rinnovata di socialismo, per chi la pensa come me chiaramente, forse avremmo la possibilità di prenderlo, quel maledetto potere. Diversamente col potere possiamo interfacciarci, ma saremo sempre dei nani in confronto a dei giganti. Un grande vuoto probabilmente anche delle menti di chi non ha voglia di affrontare questi discorsi. La butto lì. Secondo te c'è stata una visione, una volontà di arrivare a questo, o ci si è arrivati per caso, così? Quello che sicuramente è... nella visione neoliberale tante forme di rappresentanza collettive sono state anche mediaticamente attaccate. I sindacati con Margaret Thatcher, no? Grande esponente neoliberale, una delle prime, lei ha fatto una guerra dritta di faccia con i sindacati. Lei addirittura aveva detto I don't know such a society, non conosco alcuna società, ci sono solo individui e famiglie, e in una società composta solo di individui o tutt'al più di famiglie, che spazio c'è per i sindacati? Che spazio c'è per un partito politico? Che spazio c'è per un'associazione? Nessuno. Oggi quando dice ai ragazzi sei iscritto a un partito politico? No, io no, figurati, te lo dicono come se iscriversi a un partito politico fosse una macchia, un'onta dal quale allontanarsi. Si è iscritto a un sindacato? No, non sanno neanche cosa siano i sindacati, ma non gliene faccio una colpa, nemmeno io sono iscritto a un sindacato. Però forse dovremmo cominciare a ripensarci come enti collettivi. Allora forse in quell'ottica lì contrastiamo quella volontà renderci frammentati, di renderci singoli individui. Perché chiaramente se io, come Alessandro Saebi, devo affrontare il mio datore di lavoro, devo affrontare il presidente del consiglio, devo affrontare il mio sindaco, sono molto più debole. Diverso se Alessandro Saebi rappresenta un grosso partito e alle spalle un sacco di iscritti, allora parlerà diversamente col presidente del consiglio, col sindaco. Diverso se Alessandro Saebi è un grosso sindacato e va a parlare col datore di lavoro, rappresenterà molti lavoratori. E ci hanno frammentati, quindi sì, sicuramente c'è stata una volontà, ci abbiamo messo anche del nostro. Sì, e mentre descrivevi questo processo mi è venuto in mente anche, stiamo un po' uscendo diciamo dal tracciato, però secondo me vale la pena affrontare anche questo discorso. Mi è venuto in mente il movimento piduista, nel quale tutte queste diciamo operazioni, tutte queste distorsioni della rottura del sindacato eccetera, è una cosa che comunque aveva in qualche maniera previsto nel suo manifesto. Assolutamente, ma in tutta l'Europa pre-seconda guerra mondiale, quindi post-prima e dopo la seconda guerra mondiale, c'è sempre stato un tentativo di eliminare tutti quegli elementi della società definiti estremisti. Oggi estremista è una brutta parola, però io vi ricordo che erano estremisti i primi uomini che dicevano che non bisognava lavorare più di 8 ore al giorno, erano estremiste le prime donne che volevano prendere il voto, erano estremisti i primi idealisti che volevano la democrazia. Quindi il concetto di estremista è sempre molto relativo. Estremista è ciò che il potere tiene al centro. Quindi chiaramente tutto ciò che fa paura è definito e bollato come estremista. In questa logica qua ovviamente vi è un fenomeno di estremizzazione di sindacati, di tutti quei partiti che possono porre un'alternativa al modello dominante, e quindi una loro esclusione dal disegno politico generale. Questo è successo in Italia con la loggia P2, che ovviamente era una cosa un po' scura, sapete, in mezzo alla massoneria, faceva anche notizie. Ma la luce del sole succede in tutti i paesi dell'Occidente, è successo in Germania, è successo in Francia, è successo nel Regno Unito, negli Stati Uniti, molto più luce del sole, senza bisogno di ricorrere alla massoneria. Quindi sì, sicuramente è pericoloso perché omologa il discorso, il dibattito e anche la qualità politica intorno a un unico disegno, un unico modello. Poi se il modello non funziona come sta succedendo adesso, ci si trova senza alternative, e senza alternative ci si sente spacciati. Sì, diciamo che il cittadino è solo, senza più strutture intermedie a confrontarsi con le grosse realtà e senza che possa praticamente contrastarle. Paco DJ, mettiamo un brano per alleggerire un po' l'argomento? Credo sia doveroso. No, scherzo. Se no mettine uno triste, ancora più triste, che vada. Allora, non mi ricordo nemmeno cosa sia questo brano, Federico. Però il titolo potrebbe essere triste, potrebbe. Un po', ma non troppo. Non troppo? Diciamo che il titolo comunque è abbastanza azzeccato. Io lo faccio partire sotto, piano piano, poi vediamo se ci piace abbastanza triste, lo teniamo. Altrimenti invece cambiamo subito. Ce ne abbiamo qua un po' da poter scegliere. Vado, No, può funzionare. shape on my life. Don't kiss me goodbye. Just kill the lights. I don't love you now. Follow your moves, baby. You're my vampire. I'm on a cloud. There is smoke in my eyes. You know. So please don't pull me under. I don't love you no more. Benissimo, non era triste, ci ha tirato su di morale, anche se la festa era quella sbagliata, ma va bene lo stesso. E allora ci arriva qualche messaggio e ci propongono di buttare lì il concetto di decrescita di Latou e Latouche, ma io non ne ho le competenze, quindi Alessandro, se ti senti confident, magari la teniamo per la fine. Poi la decrescita felice. Sì, credo di sì. Bene, abbiamo introdotto il concetto di disuguaglianza nell'equazione. Dal tuo punto di vista, Alessandro, uguaglianza sociale e giustizia climatica sono temi legati a filo doppio? In parte hai già risposta, ma soprattutto, anche per quanto riguarda la giustizia sociale vale quanto abbiamo detto sopra? E ancora, la crisi climatica è una crisi di classe? E per concludere questa sezione e questa lunganda lunghissima, oggi come oggi, quale dovrebbe essere il punto di partenza? Risolvere la crisi sociale o risolvere la crisi climatica? Ok, se ci riesci a rispondere, partiamo da... a casa. Se, guarda, se ci riesci a rispondere, ti mandiamo a casa. Non lo so, cosa possiamo mandargli a casa? Un panettone, Alessandro, che arriverà per Natale. Corretto. Ok, allora partiamo dall'ultima domanda, che è quella che mi ricordo meglio. Dopo magari a ritroso cerco di tornare su e cerco di andare al punto. Si risolve prima la crisi climatica? Si risolve prima la crisi sociale? È un po' la domanda dell'uovo e della gallina, non si sa bene cosa venga prima. Sicuramente siamo arrivati ad una crisi climatica proprio perché ha trovato un terreno fertile sopra una crisi sociale. Questo è evidente. Crisi sociale che cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto, come ho detto prima, una forte crisi nei processi decisionali e nei processi democratici. Se vivessimo in una democrazia vera, se vivessimo in una democrazia che funziona perfettamente, ma anche non perfettamente, ma che tenda, diciamo, un pochino di più al funzionamento, i cittadini avrebbero più potere decisionale, i cittadini avrebbero maggiori informazioni, non ci sarebbero state storture e a livello mediatico e a livello istituzionale, e quindi probabilmente la crisi climatica ci sarebbe stata? Sì, perché negli anni 80 non eravamo già messi bene, cioè da dire che abbiamo fatto anni di ignoranza, però sicuramente avremmo avuto gli strumenti per agire in anticipo. E poi soprattutto perché il capitalismo, come ho detto, si serve ovviamente dello sfruttamento incontaminato e illimitato di risorse naturali e di risorse umane. Se noi non avessimo lottato, se a un certo punto delle persone non avessero alzato la testa, probabilmente saremmo ancora legati ai telai a lavorare 18 ore al giorno. Senza la pressione dei gruppi ambientalisti, senza la controinformazione dei giornalisti coraggiosi che molte volte hanno messo a repentaglio anche la propria vita, oggi non sapremmo con tanta chiarezza la drammaticità della situazione in cui ci troviamo. Quindi è evidente che la crisi climatica e la crisi sociale sono due terreni in cui il capitalismo ovviamente ha mangiato, ed è evidente che chi non la pensava come chi deteneva il potere ha cercato di mettersi in mezzo, quindi ha denunciato in modo trasversale entrambe le problematiche, come ho detto, sono intrecciate. Poi quindi per quanto riguarda la risoluzione, per me anche in questo caso è trasversale creare un movimento che sia in grado di parlare delle persone, che sia in grado di parlare dell'ambiente in cui vivono le persone, è estremamente importante. Noi lo sappiamo da metà degli anni Ottanta, anche questo da tanti anni. L'ONU lo ammette dall'inizio degli anni 90, l'IPCC lo dice quasi dall'inizio, almeno negli ultimi 4 rapporti c'è scritto. Non siamo sulla stessa barca, questo è un mito che dobbiamo sfatare. La crisi climatica colpirà, anzi sta colpendo maggiormente, le persone che si trovano ai margini del nostro pianeta e ai margini della nostra società, anche all'interno delle nazioni ricche. Se sei povero e vivi in una periferia o vivi in una zona dove hanno messo un bel impianto di smaltimento di rifiuti, ovviamente soffri maggiormente la crisi climatica di chi vive in un bel quartierino vista mare, in un paesino della costiera ligure, per dirne una. Quindi è evidente, ormai è messo nero su bianco, e lo vediamo non ultimo dagli sbarchi che abbiamo a Lampedusa, che abbiamo nelle nostre coste. La crisi climatica colpisce prima gli ultimi, in questo caso è una crisi umanitaria. Sappiamo che ci sono già in corso dei conflitti che sono sicuramente spinti dalla crisi climatica. Una siccità non vuol dire solo che non piove, una siccità vuol dire che due popoli, due territori possono entrare in conflitto per una risorsa idrica. Questo è banalmente. Siccità può anche voler dire che il contadino non ha più un terreno da coltivare ed è costretto ad attraversare il Mediterraneo in un viaggio dove sa che ha altissime possibilità di morire, se non di finire in un lager libico, altra opzione non proprio delle più rose. Quindi è evidente che la crisi climatica, quando parliamo di crisi climatica, è un po' limitativo il termine, no? Dovremmo allargarlo a quelli che sono gli effetti sociali. E poi, come è scritto nei rapporti IPCC, questi effetti sono esponenziali. Banalmente, quando la crisi climatica, gli effetti della crisi climatica ovviamente saranno più forti, li potremo vedere con maggiore frequenza, quindi nei prossimi anni, nei prossimi 10 anni, non sarà più solo il contadino della Nigeria, non sarà più solo il povero pescatore del Bangladesh il cui fiume è inquinato, non sarà più il cinese che ha subito una frana e gli ha distrutto la casa, ma saremo noi. E cosa succederà in questo contesto? Succederà che se domani mattina, faccio un esempio stupido, dovesse esondare un fiume o domani mattina dovesse partire un incendio e distruggere delle abitazioni, se sei ricco o super ricco puoi prendere un aereo, spostarti da un'altra parte, comprare casa in una zona più sicura, o puoi spostarti nella tua seconda casa se ce n'è una. E se sei povero e non puoi spostarti o non comprare un'altra abitazione, beh, a quel punto avrai perso tutto. Questo scenario qui colpirà anche l'Italia, e su questo non possiamo nasconderci dietro un dito. Quindi bisogna anche, secondo me, a livello narrativo cominciare a far capire alle persone che non si tratta di salvare l'orso polare perché non riesce più a trovare l'iceberg, non si tratta di salvare l'ultimo esemplare di panda, ma si tratta di salvare noi stessi dalle crisi sociale e climatica a cui siamo affetti per colpa ovviamente dei profitti e della crescita di qualcun altro. Credo di aver risposto a tutto. Mi sa di sì. Tra l'altro, qua, piccolo inciso mio, mi sa che lo stiamo già vedendo, abbiamo visto un po' di disastri. Tra l'altro la Liguria che citavi prima, invece qualche giornata non particolarmente piacevole la settimana scorsa se l'è vissuta, quindi va bene, ci farà aprire gli occhi, ci farà vedere le cose da vicino, ci fa rendere conto che effettivamente non sono così distanti come pensavamo precedentemente. Non lo so, ho bisogno di musica forse. Bisogna passare, secondo me, attraverso un concetto che noi progressisti, adesso metto tutto in un grosso calderone, forse abbiamo un po' superato, non riusciamo più a tirare fuori, quello dell'emancipazione. Noi dobbiamo tornare ad emanciparci come cittadini e sapere che abbiamo dei diritti e abbiamo un potenziale politico, e quindi dobbiamo pretendere che ci ascoltino, e solo se ci uniamo ci ascoltano. Questo è evidente. Bisogna tornare a far credere le persone alla politica, far tornare le persone ad interessarsi circa i fenomeni collettivi e globali. È una sfida politica, però riaccendere la fiamma si può. Noi siamo portati, naturalmente, tutte le società lo fanno, a interessarci del prossimo, a interessarci del territorio in cui viviamo. Siamo adesso un po' sopiti, ma so che sembra totalizzante perché poi noi siamo millennial, siamo nati in questo contesto qua, però è chiaro che anche un Valvassore nato nell'alto medioevo credeva che quello fosse l'unica condizione possibile. Gli è crollato il mondo intorno a un certo punto, no? E crollerà anche questo sistema morale. A parte che io credo di essere ancora generazione X, però vabbè, E... secondo me sei un boomer, Fede. Boomer, no. Ah, ok, ok. E, no, a questo punto... la voce giovane, provo, oddio. Ci provo. No, a questo punto quello che mi sembra di capire è che il capitalismo sta morendo perché sta andando verso un estremismo totalizzante che porta a un estremo non colmabile. Il pianeta sta morendo perché lo abbiamo portato, lo stiamo portando col capitalismo alla morte, ma a questo punto la domanda è: cosa aspettiamo a non a prenderne coscienza, ma a fare qualcosa, a farlo subito? Cioè, e poi mi riporto ai tempi degli anni 60, quando si facevano le lotte in piazza, quando ci si sparava addosso, ma quando i diritti si ottenevano. Perché siamo così addormentati? Ecco, magari se ci ascolta la Digos, sappiate che non stiamo promuovendo sparatoria in piazza, sono sicuro che se no domani mattina ci troviamo con una bella perquisizione a casa. No, beh, allora sicuramente sono, come dici tu, il mondo sta morendo, il capitalismo sta morendo, noi tre stiamo morendo banalmente. Non c'è niente nella storia che sia rimasta uguale un giorno con l'altro, quindi anche quando mi dicono sì, però il capitalismo è imbattibile, no, non è vero, è semplicemente una fase, come ho detto già più volte, è una fase storica. Anche l'assopimento, anche la nostra incapacità di pensarci come animali politici probabilmente è un periodo storico. Adesso noi, faccio un esempio, studiamo l'Ottocento molto velocemente, no? Ce lo presentano a scuola, giusto il risorgimento perché abbiamo fatto l'Italia. Però se noi andiamo a vedere i cicli dei movimenti nell'Ottocento, vediamo che passano decenni tra la Comune di Parigi, la Restaurazione, ciò che succede prima della Comune di Parigi, passano vent'anni prima che si muovesse qualcosa. Quindi è evidente che nella vita di un individuo sembra tanto tempo. Dagli anni 60 a oggi, a noi, che magari non abbiamo ancora compiuto, non so, 40 anni, sembra veramente un'altra era geologica. Vedi queste foto in bianco e nero di gente col cappuccio in testa, con la pistola in mano, con i cartelli, con le piazze piene, ci sembra veramente un'altra cosa. Ma sai, ma in realtà quando nel 2200... Ti interrompo un secondo, perché questo discorso, guarda, mi ha risvegliato. Vabbè, effettivamente dal torpore, no scherzo. Ma effettivamente, scusa, siamo noi quindi che il nostro passo è sempre lo stesso. La tecnologia però sta avanzando a un passo che invece non è paragonabile come a quello precedente, e ci troviamo un po' spiazzati, ci troviamo in ritardo, non riusciamo a inseguire socialmente con la stessa velocità con cui si sviluppano altre dinamiche. Allora, sicuramente la tecnologia ha un effetto dirompente in questo discorso che sto facendo, perché è evidente che la tecnologia permette poi a chi detiene il potere economico di fare degli avanzamenti sul piano politico che sono 10 volte quelli che possiamo fare noi. Basta vedere tutto il tema della privacy e del controllo sociale che esiste attraverso gli strumenti di tecnologia che noi utilizziamo. Noi come comuni cittadini abbiamo forse un pochino di conoscenza adesso, ma noi che magari ci interessa un po' più l'argomento. Già se vado al bar o alla piazza principale del mio paese, probabilmente sto parlando arabo. Chiaro che chi ha il potere detiene il controllo delle tecnologie e lo utilizza per creare ancora maggior divario. Però non credo, come sempre è successo, che questo potere possa essere tenuto nelle mani delle stesse persone per sempre. Stavo dicendo prima, quando nel 2200, se esisterà ancora l'umanità, studieranno gli anni del 2000, probabilmente dal 2000 al 2020 lo studieranno abbastanza velocemente, perché a livello sociale non è successo un granché, però magari succederà qualcosa negli anni successivi, un po' come il ventennio fascista in Italia, no? Finché non c'è stata la guerra, quel periodo lì lo si studia in modo abbastanza piatto, però sono passati tanti anni, sono passati 15 anni, erano tante. Quindi semplicemente si tratta di relativizzare dal mio punto di vista. Poi adesso stavo cercando di ritrovare almeno la fonte, in realtà non riesco, non la ritrovo. No, se non c'è la fonte non ci crediamo. La troverò e ve la dirò, però facciamo una lista delle principali minacce per l'umanità, e ancora prima dei cambiamenti climatici, ancora prima del nucleare, l'avanzamento tecnologico, l'intelligenza artificiale sembrava essere, era posizionata come la principale minaccia per l'estinzione umana. Questo dovrebbe far riflettere. Ma un po' di sì, allora, anche in questo caso l'intelligenza artificiale, la tecnologia sono strumenti, poi bisogna capire chi li prende in mano. È vero che un uomo molto ricco può dotarsi di un esercito di robot, e farci la guerra, può fare la guerra da solo a una nazione. Esatto, sì. Quindi è evidente che questo può allargare le disuguaglianze e gli effetti della disuguaglianza. In questo senso qua io sono per un maggiore controllo pubblico di alcuni processi. Le automazioni, per esempio. Le automazioni fanno risparmiare dei soldi alle aziende che possono permettersi di licenziare e lasciare delle persone a casa. Se le automazioni le controllasse di più lo Stato, o comunque la collettività, non sarebbe solo maggiore profitto, sarebbe meno lavoro. Vorrebbe dire che invece di lavorare 8 ore al giorno, probabilmente grazie all'aiuto dei robot potremmo lavorare 3-4 ore al giorno. Però essendo in mano a chi ha profitto, noi continuiamo a lavorare 8 ore al giorno, continuiamo a prendere una miseria e i frutti dell'automazione se ne vanno a quel famoso 1%. Uno dei motivi per cui la disuguaglianza sta aumentando è anche questo. E siccome l'automazione sta avanzando velocissimamente, è evidente che se non facciamo qualcosa, se non riprendiamo controllo dei mezzi di produzione, perché la tecnologia è mezzo di produzione, è un discorso molto marxista, me ne rendo conto, però se non riprendiamo il controllo dei mezzi di produzione, noi non abbiamo alcuna speranza di poter riappianare, di poter riequilibrare anche a livello sociale le differenze che esistono tra noi e questa quasi nuova razza che si sta creando dei super ricchi, perché ormai fanno una vita completamente staccata dalla nostra e qualcuno sta anche cercando di sconfiggere la morte, quindi stiamo parlando proprio quasi di fantascienza. Mi immagino tu ti riferisca a Kurzweil. Anche Bezos ha investito in una startup poco fa che vuole invertire il processo di degenerazione cellulare. Adesso ci sembra di fantascienza, magari rischio di sembrare uno stolto se ne parlo, però fra qualche anno probabilmente si riuscirà magari non a sconfiggere la morte, ma che ne so, a diventare più forti, più prestanti, più longevi. E a quel punto si tratterà veramente di creare degli umani di serie A e degli umani di serie B. Se lo Stato controllasse questo, probabilmente quei benefici verrebbero ridistribuiti. Noi l'abbiamo messa sul piano della biogenetica, insomma stiamo parlando di qualcosa di forse un po' troppo astratto, però ripeto, come ho detto prima, anche sulle ore del lavoro basterebbe ridistribuire. No Fede, ma tu poi stavi parlando di Kurzweil, della singolarità, ma che è un altro concetto importante, però non mi infilerei in sto ginepraio qui che diventa estremamente complicato. Io ti giuro, Federico, che ho bisogno di un po' di musica adesso, più che altro voglio bere un goccino d'acqua. Va bene, alleggeriamo un po' con un bel brano. Cosa ci propone Paco DJ? Me la vado a prendere anche io. Lupe Fiasco? Va bene? Lupe Fiasco sia. Bene, vado a bere anch'io, ragazzi. Buona bevuta. It's a spy from behind my giant robot's eyes. I keep him happy cause I might fall out if he cries. Scared of heights so I might pass out if he flies. Keep him on autopilot cause I can't drive. Room enough for one, I tell my homies they can't ride. Unless we're sitting on the shoulders, but that's way too high. Let's try not to step on the children. The news cameras filming this walking project building. Now that's selling like right around the toes. And the crackheads beg at about the lower leg. There's crooked police that's stationed at the knees. And they do drive-bys like up and down the thighs. And there's a car chase going on at the waist. Keep a vest on my chest. I'm sitting in my room as I'm looking out the face. Something to write about. I still got some damage from fighting the White House. Just a I fell asleep amid the flowers. I fell asleep beneath the flowers. For a couple of hours. For a couple of hours. On a beautiful day. On a beautiful day. Now come on everybody, let's make it cool. We need a few more half naked women up in the pool. And hold this, it's all covered in jewels. And can you please put your closer to the 22s. And where's the champagne? We need champagne. Now look as hard as you can with this in your hand. And now hold up your chain. Slow motion through the flames. Now cue the smoke machines and the simulated rain. But not too loud cause the baby's sleeping. I wonder if it knows what the world is keeping. Up both sleeves while he lay there dreaming. Me and my robot tiptoe round creeping. I had to turn my back on what got you paid. I couldn't see, had the hood on me like Abu Ghraib. But I like to thank the streets that drove me crazy. And all the televisions out there that breaks me. I was angry. Stiamo tornando, sì, mi sa di sì. Fede, microfono tuo. Non stavo ripensando a quello che diceva Alessandro. E mezzi di produzione, un lavorare 3 ore. Ok, siamo in questo. Che bello sarebbe lavorare 3 ore. Alla stessa paga. No, il concetto che mi chiedo io è una riconversione green significa che più aziende iniziano a spostarsi, quindi immagino che un'azienda petrolifica debba chiudere perché è un'azienda inquinante e quindi questa cosa non si può più sostenere e quindi l'azienda petrolifica la chiude e un sacco di gente perde il lavoro. Quindi parleremo di esuberi, cioè questa conversione green, quanto ci costa? C'è posto per tutti, riuscirebbe a essere comprensiva per tutte le persone che dovrebbero smettere di lavorare in quelle che sono le aziende o le attività inquinanti? Allora, intanto faccio notare che qualcuno ha detto che bello sarebbe lavorare 3 ore. 200 anni fa c'era qualcuno che diceva che bello sarebbe lavorare 8 ore, perché magari erano obbligati a lavorarne 16. Basta pretenderlo, se ci sono oggettivamente le condizioni per poterlo ottenere. E oggi magari 3 no, però 4 o 5 sì, le condizioni ci sono, basta pretenderlo. Questo sarebbe semplicemente il frutto della distribuzione del potere lavorativo, che oggi è detenuto da, come dicevo prima, da una piccola percentuale di persone. Se fosse più redistribuito, invece di dare i dividendi agli azionisti, probabilmente potremmo lavorare un po' meno tutti. Questo è un piccolo inciso che mi sento di fare perché è importante. Mi devo difendere. La seconda questione è... Scusa, mi devo difendere, no. Ma vai. Io adesso ti dirò una cosa, e secondo me non sono l'unico. Allora, questo tra l'altro smart working che abbiamo subito nell'ultimo anno e mezzo. Che secondo me non era uno smart working, ma era un home office. Home office, come lo vuoi chiamare tu? Sta di fatto che le 8 ore al giorno, le 9 ore al giorno, io sono convinto che la maggior parte di noi non se le ha fatte, no? Dai, non dirmi, Federico, che non hai acceso la TV una volta al giorno. Vorrei dire a tutti i miei datori di lavoro che non condivido questa affermazione. Se non sentissi il tonfo di Tank Cad in diretta, ti darei un pugno in testa. Dai, che l'hai fatto? Non hai letto un libro in più? Un po' di musica in più? Produttività è rimasta uguale, hai semplicemente lavorato di meno, hai lavorato meglio e ti sei fatto un po' più di cavoli tuoi. In realtà io ho lavorato di più e la mia compagna idem, nel senso che quello che abbiamo notato, adesso non vorrei entrare nel personale, però è che se prima ci si connetteva alle 9, dalle 9 si è arrivata a connettersi alle 8:30, poi alle 8 del mattino eravamo già operativi fino alle 20 della sera. Hai ragione, in effetti è quello che ho fatto anch'io, mi sono fatto questo film meraviglioso dove questo anno e mezzo l'ho sfruttato alla grande, ho letto un sacco, ho visto dei film, ho fatto quello che non avevo fatto precedentemente, ma poi alla fine in effetti è stato mail dalla mattina alla sera, raggiungibile sempre, disconnesso mai. Va bene, scusami Alessandro, prego. Tutto tuo il microfono un'altra volta, me ne ritorno. Ma questo video. Perché è un po' come diceva. Dicevo io forse. Non è stato smart working, semplicemente è stato la replica di quello che era il lavoro in ufficio portato a casa. Questo è il frutto poi anche di una cultura sbagliata del lavoro e del lavoratore, dove il lavoratore è una risorsa umana, è una parola bruttissima, è una risorsa da spremere come se fosse un'arancia, e nel momento in cui l'ho finita lo sostituisco. Ci sono più di uno studio, c'è una letteratura scientifica su questo che è ampissima, che la produttività dei lavoratori aumenta quando il contesto lavorativo è in... Ti abbiamo perso ancora? No, si utilizzano tutte le energie fisiche e mentali del lavoratore. Ah, caspita. Dov'è che mi avete perso? Tempismo? È così, è troppo difficile, Fede. Non mi ricordo. Riprendi pure Alessandro, tranquillo. No, dicevo, c'è fior fior di letteratura che dimostra che un lavoratore, quando vive un contesto favorevole, è molto più produttivo. Purtroppo questo beneficio viene dato solo a una piccola percentuale dei colletti bianchi, quindi super manager o super direttori. Qualcosina, qualche briciola viene dato anche a qualche quadro. Sui lavoratori definiti non skillati o umili, che è un termine che ovviamente non approvo, c'è ancora un po' questa visione: sono uomini in ingranaggio che bisogna spremere quanto possibile. Ovviamente è un modo di pensare estremamente sbagliato. E non mi ricordo però adesso la domanda, ragazzi, voi che mi avete chiesto? Se nella riconversione green c'è spazio per tutti, se tutti possiamo permetterci, ma in realtà hai risposto, nel senso basterebbe... Ok, ok. Basterebbe, mi sentite? Sì, ti sentiamo. E stavo tirando un attimo le file, se non ho capito male, basterebbe, tra virgolette, questo basterebbe, anzi mille virgolette, un traslare quelli che sono i profitti per le aziende e ridistribuirli nel loro capitale umano, quindi nel senso una settimana lavorativa di 3 ore con uno stipendio invariato sarebbe solo liberare tempo per la risorsa umana e quindi in qualche maniera ridistribuire la ricchezza. Allora sì, questa è una lettura che ovviamente andrebbe fatta bene a fondo, però per esempio Thomas Piketty, che è un famoso economista, lo dimostra come le rendite da capitale, quindi tutto ciò che riguarda i profitti del famoso 1% degli azionisti, aumentano, invece le rendite da lavoro diminuiscono. Questo vuol dire appunto che si stanno arricchendo gli azionisti, chi gioca in borsa sulle aziende, e non si stanno arricchendo i lavoratori, anzi si stanno arricchendo quelli che giocano in borsa sulle spalle dei lavoratori, e questo è profondamente sbagliato. Però ovviamente non è solo qui la questione, il tema lavoro riconversione è molto complesso. Io però faccio sempre un esempio che secondo me è importante fare. Quando l'Italia entra in guerra, soprattutto nella seconda guerra mondiale, buona parte della sua industria deve essere riconvertita velocemente. Noi abbiamo una capacità di conversione molto più veloce di quello che si possa pensare, anche sul piano individuale. Se ci pensate, 2 anni fa, se mi aveste detto di mettere la mascherina e mettere il gel ogni mezz'ora, un'ora, vi avrei riso in faccia. E invece siamo cambiati velocemente, le stesse aziende hanno cambiato modelli di business, le stesse aziende hanno cambiato abitudini in poco tempo. È chiaro che vi è un costo sociale nella riconversione, come c'è stato un costo sociale nella riconversione e per entrare in guerra e soprattutto per uscire dalla guerra, perché poi quei soldati che tornavano al fronte, un'azione semidistrutta, se non ci fossero stati gli aiuti Marshall sarebbe stato molto difficile, e i primi anni sono stati molto difficili quelli della ricostruzione. La riconversione è una sfida, però lo Stato serve proprio a questo, uno Stato forte è in grado di gestire questa sfida affinché non si creino tensioni sociali. Ovvio che in un contesto come quello in cui viviamo adesso, in cui lo Stato è stato depotenziato e saccheggiato dalle forze private, io un po' di paura ce l'ho, perché ho paura di non trovarmi pronto come collettività ad assorbire quelli che sono i costi sociali di una riconversione energetica. Il fatto che non ci sono le capacità, forse gli strumenti di farlo in modo repentino, è ancora più spaventoso, vuol dire che rallenteremo ancora di più la transizione e andremo sempre di più incontro allo schianto. Anche in questo caso qui, a costo di essere un vetero marxista, la mia risposta è più controllo statale, più Stato, c'è bisogno di più controllo della collettività e quindi ridistribuzione del potere. Diversamente, replichiamo le stesse dinamiche che ci hanno portato fin qui. Tra l'altro il discorso che facevi sulla finanza è molto attuale, con lo scoppio degli ennesimi Pandora Papers, 5-6, non mi ricordo quanti anni dopo il caso Panama Papers, pare che non sia cambiato nulla, nel senso i super ricchi continuano a eludere il fisco togliendo risorse alla collettività e ad arricchirsi sempre di più, ma alla stessa maniera, diciamo, se un imprenditore dovesse scegliere, almeno a mio avviso, se aprire un'impresa con tutti i rischi che ne consegue o arricchirsi, tra virgolette, con la crescita del mercato azionario, probabilmente il fatto di investire risorse in borsa è sicuramente più sicuro e più facile rispetto a fare imprese. Probabilmente anche in questo modello dovremmo rivedere qualcosa. Certo, questo è il frutto di scelte politiche, badate bene, non è una situazione che è così, è una situazione che è stata creata per essere così. Gli stessi Pandora Papers sono l'esempio lampante, concreto, scritto nero su bianco su più di 11 milioni di documenti, che vi è un internazionale di super ricchi, di governanti, di potenti, che coopera indipendentemente dalla questione geopolitica, indipendentemente dalla nazionalità, ma cooperano perché hanno una coscienza di classe, loro sì ce l'hanno, per saccheggiare risorse ai paesi in cui hanno la residenza, i paesi in cui in alcuni casi devono addirittura governare i cittadini. A questo siamo arrivati. Devo togliermi un sassolino dalla scarpa. Un famoso podcast, Morning, il Post, l'altro giorno ha fatto una puntata su Pandora Papers, dicendo che alla fine non c'è niente di illegale in sé nell'avere un trust, una società offshore a Panama, alle Seychelles o in un altro paradiso fiscale, come se tutto sommato fosse qualcosa di normale. No, è qualcosa di legale in molti casi, non sempre, badate bene, perché poi i paradisi fiscali vengono usati per riciclare denaro sporco, e qui bisogna essere chiaro. Però molte volte è vero, come diceva durante il podcast lo speaker Francesco Costa, molte volte è qualcosa di legale, quindi i Pandora Papers non stanno facendo emergere dei reati in senso stretto, no, stretto legge, però la legalità non è nient'altro che l'emanazione di una decisione politica, e la decisione politica viene presa da chi ha il potere politico in quel momento. Quindi se oggi i super ricchi hanno la possibilità di poter celare soldi al fisco, di poter aprire società offshore, trust o strumenti finanziari in grado di tutelarli, saccheggiare le risorse dai paesi, dai lavoratori e dall'ambiente, il fatto che sia legale non lo rende moralmente ineccepibile. Da un punto di vista morale, per me è un furto, tanto quanto è il furto della persona che magari ruba un portafoglio o ruba una bottiglia di vino al supermercato. Quindi attenzione, perché poi quei temi bisogna stare attenti. Chiaro che chi ha il potere riesce ad ottenere sconti sulle pene, per esempio l'elusione fiscale non è più penale in Italia dal 2015, oppure riesce addirittura a rendere sistemi di saccheggio, di furto organizzato, legale, perfettamente limpido, quasi alla luce del sole. Dico quasi perché sennò non userebbero i paradisi fiscali. È un tema complesso, sono 11 milioni di documenti, quindi lì in mezzo c'è un po' di tutto. C'è anche Raffaele Amato, un camorrista che ha nascosto i suoi soldi, però andrebbe affrontato. Però secondo me è legato a doppio filo a questa logica predatoria, a questa logica unidirezionale, la crescita, il profitto privato, l'individualismo, e che ovviamente si replica anche in alcuni processi finanziari, processi economici che si possono verificare. Però, come ho detto prima, questo qui è il frutto di una lotta di classe in cui uno dei due componenti non sapeva di essere in campo e a combattere. Noi non lo sapevamo quando ci distruggevano il pianeta, noi non lo sapevamo mentre il presidente della Macedonia prendeva i soldi sui cittadini e li portava via. Loro sì, però lo sapevano, che si sono organizzati bene. Diciamo che un'ottima conclusione, nel senso l'estremo probabilmente in questo qua è proprio l'apice del, come dicevi tu, della logica predatoria. Qua ci vorrebbe probabilmente, potremmo introdurre un discorso sull'Europa e sull'uguaglianza fiscale eccetera eccetera, ma non lo faremo, e secondo me possiamo concludere qua. Volevo solo ricordare una battuta che mi è rimasta impressa quando abbiamo fatto la call di allineamento per questa diretta, e tu dissi che come noi ci ricordiamo i vecchi templari che combattevano ed erano dei folli perché facevano tutto nell'ottica della religione eccetera, in quell'ottica i nostri posteri ci vedranno i folli perché ci siamo mossi in questi decenni solo secondo la logica del profitto. Questa era una battuta che volevo ripetere perché secondo me era geniale.